Avventurieri, davanti a voi ci sono dei pesci guardia che richiedono una parola chiave per farvi accedere alla grotta, ma non sembrano esserci indizi su quale possa essere la parola chiave. Perché non provate ad analizzare meglio la situazione?